e Nickel and Nail. Thank you so much. Sleeping. All I got, baby, is E adesso seguite le lente divagazioni di questa Precious Precious. Qualcosa che ricorda l'organo di Billy Preston. Con citazioni targate più o meno tutta la musica soul. In particolare con un richiamo diretto a You Send Me di Sam Cooke verso la fine. Davvero un'esperienza. Davvero un viaggio. Qualunque cosa state facendo, comunque la state facendo, speriamo che questo vi aiuti a farla meglio. Speriamo che questo vi aiuti a sentirvi meglio. Perché voi, come dice questa canzone, siete precious, preziosi. Se non altro per voi stessi, quindi abbiate cura di voi, trattatevi bene. Con qualcosa che sia anche nella vita simile a questa musica. I know sometimes you get weary, I know you get weary sometimes, the ladies get weary sometimes. Wearing that same old shabby dress, yeah. Oh, but when she gets weary, all you got to do is try a little tenderness. Sometimes you got to give a flower, hold her in your arms, whisper softly in her ear, and you got to tell us the baby, darling, you send me. Ain't nobody do it. Ain't nobody make me feel the way you make me feel. That's why I'm gonna tell you, Tokyo, I just got to tell you one more time, darling, you send me. Can nobody make me feel? Can nobody do it to me the way you do? E siamo così arrivati all'ultimo capitolo. Thank you. Yeah. Anche per la parte mia, per voi, yeah. Thank you, ringraziamenti. Yeah. E soprattutto l'augurio che quello che yeah. dice il titolo di questa canzone, Love and Happiness, amore yeah. e felicità, sia appunto per voi amore e felicità. I came here tonight to tell you. I'm here tonight to tell you they told me to tell you cause you're a friend of mine. You're a friend of mine. And I want you to know I came all the way here to tell you tonight. I came here to tell you, Tokyo, I wanna tell you about love. Love. Love. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Love and happiness. Amore e felicità, appunto. I want you to know. I want to tell you about love. Does anybody out there need some love this evening? Do you need a little love? Does anybody out there need some love this evening? Do you need a little love? Love and happiness. Abbiamo bisogno tutti di un po' d'amore, dice Otis Clay, di un po' di amore e di felicità, ed è vero. Something that will make you do wrong. Ed è questo l'augurio per il giorno che incomincia. Make you do right. No. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, talking about it. I can't make it right. Happiness is when you really feel good about somebody. Ain't nothing wrong with being in love with someone, yeah. Yeah. I'll be good to you. We'll be together, seeing each other. Thank you.

Hard Working Man, Tokyo 1983, dedicato a tutte le donne che in questo momento stanno lavorando, qualunque sia il tipo di lavoro che stanno facendo, qualunque sia il tipo di sollievo che stanno dando all'umanità e qualunque cosa la gente pensi di questo lavoro. E se mai vi siete chiesti che cos'è la musica soul, ebbene, c'è una risposta, l'ha data Ray Charles tanti anni fa. Il grande Ray ha detto che la musica soul è semplicemente tutto quello che è talmente forte da non riuscire a stare dentro, da aver bisogno di venire fuori. Ebbene, Ray Charles, registrato dal vivo, Atlanta, 28 maggio 1959, con l'appoggio vocale, con il sostegno vocale di Marjorie Hendrix, una delle sue Raylets, la voce del soul, la voce del cuore, la voce dell'anima. E se la notte è il momento giusto, come dice Ray Charles, the night time is the right time, ebbene, nessun momento è migliore della notte per ascoltare la musica soul. I want to be free. Thank you. Yeah. Avevamo cominciato questo viaggio con Otis Clay. Yeah. E i suoi ringraziamenti, ritorniamo ancora una volta a lui. Yeah. Yeah. I came here tonight to tell you. Voglio proprio dirvi questa notte. I'm here tonight to tell you. Sono felice di dirvi. They told me to tell you. Mi hanno chiesto di dirvi. Your friend of mine. Un mio amico. I came all the way here to tell you tonight. Insomma, voglio proprio dirvi questa notte. I came here to tell you Tokyo. I wanna tell you about love. Una cosa che riguarda l'amore. Love. L'amore. Love. L'amore. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Love and happiness. L'amore e la felicità. Per tutti voi, per tutti noi. I want you to know. I want to tell you about love. Is anybody out there need some love this evening? Perché tutti prima o poi abbiamo bisogno di un po' d'amore. Does anybody out there need some love this evening? Do you need a little love? Love and happiness. Well, something that will make you do wrong. Make you do right.

Love and Happiness, un omaggio anche ad Al Green. Ancor meno, io penso, serve per introdurre Little Richard, se non una piccola notazione di costume, che mentre la musica di Fats Domino è nello stesso tempo sensuale, con anche qualche sottofondo risvolto di chiara origine, di chiara intonazione sessuale, ma nello stesso tempo è piena di gioia, la musica di Little Richard in realtà è sì sensuale, ma con qualche cosa sotto di assai meno gioioso. E questo perché il personaggio è stato sempre attraversato, come dire, da correnti alterne. Per un verso ha scritto canzoni, ha interpretato canzoni che erano veramente un inno alla gioia selvaggia di vivere. Per un altro verso ha sempre sentito tutto questo come una colpa. E se l'è fatta questa colpa, al punto di a un certo punto troncare una carriera che era in piena ascesa per andare a fare il predicatore. È una cosa che molti musicisti americani, stranamente poi quelli più appassionati, quelli più, diciamo, anche più violenti, anche quelli più eversori, prima o poi fanno, l'ha fatto Jerry Lee Lewis, l'hanno fatto tanti altri e appunto l'ha fatto anche Little Richard, con qualcosa in più che era, aveva a che fare con una categoria dello spirito, chiamiamola così, che gli americani chiamano frenzy, che è una specie di eccitazione portata al parossismo, che lui ha trasferito di pari pari dalla musica alla predicazione religiosa, e chi l'ha visto come predicatore dice che più o meno faceva il paio con quel che riusciva a fare come cantante.